L'Unione Europea per il 2010 ha stabilito degli obiettivi per quanto riguarda i consumi complessivi di energia e anche per rilanciare le fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Il nostro Paese è in difficoltà e anche in ritardo sulla direttiva europea. Anche per questo Legambiente ha promosso oggi a Roma un convegno dal titolo Idee e prospettive per rilanciare le energie rinnovabili. Noi siamo in collegamento con Edoardo Zanchini, il direttivo di Legambiente, al quale chiediamo innanzitutto quali sono le difficoltà che il nostro Paese incontra nell'utilizzo delle energie rinnovabili e il perché del ritardo. L'Italia ha uno straordinario patrimonio in quanto riguarda le vecchie fonti rinnovabili, ossia il grande idroelettrico e il geotermico, anche molto maggiore degli altri paesi europei. Fatica invece rispetto a quelle che sono nuove, ossia il solare termico, il solare fotovoltaico, l'eolico, le biomasse. I motivi sono in incentivi che in questi anni hanno premiato e continuano a premiare le fonti tradizionali che vengono definite assimilate, e quindi in questo decennio sono stati, diciamo, regalati 30 miliardi di euro, ossia 60 mila miliardi di lire, fonti tradizionali spacciandole per rinnovabili, e l'altro è la mancanza di una politica che appunto semplifichi i passaggi, renda possibile ed economico per i cittadini e per le aziende di investire per esempio a mettere un pannello solare. Oggi non conviene ed è troppo complicato. Purtroppo i provvedimenti che invece vengono presi sono quelli di aumentare ancora la produzione di centrali vecchie inquinanti in giro per l'Italia. Ecco, Edoardo, scusa, da quello appunto che tu dici pare che comunque ci sia anche un problema di scelte anche politiche, oppure anche un discorso legato ad una mancanza effettiva di conoscenza e di ricerca in questo campo in Italia? La politica energetica di questo paese punta ad aumentare la produzione tradizionale, quindi sono state approvate 30 nuove centrali a turbo, gas a ciclo combinato, ossia le fonti tradizionali. Le fonti rinnovabili in questo contesto sono assolutamente marginali. Il problema è che se si vuole puntare sulle fonti tradizionali bisogna fare come hanno fatto gli altri paesi europei, la Germania, la Spagna, la Grecia, la Danimarca, che sono molto più avanti di noi. E significa mettere in campo degli incentivi alle fonti rinnovabili che siano trasparenti e chiare, cioè che tutti possano capire, e ad oggi non è così, è troppo complicato. E dall'altro investire in una politica industriale, cioè per esempio se tutti parlano di innovazione, l'innovazione si fa nella ricerca sulle fonti rinnovabili, che in questi anni hanno permesso ad alcune regioni europee, ad alcuni paesi europei, di arrivare al 20, 30, 40% di fabbisogno di energia realizzato da fonti pulite, cioè dal sole, dal vento, dalle biomasse. Quindi oggi la ricerca ha fatto dei passi avanti straordinari, è possibile fare delle fonti rinnovabili a prospettiva energetica mondiale e anche italiana. Quello che manca è una politica che vada in questa direzione e non invece nella direzione tradizionale, che è quella di centrali inquinanti a petrolio, a gas, eccetera. Quando si parla appunto di scelte politiche su queste questioni si parla sempre di politica in senso più appunto allargato, generale, di scelte legate alla politica anche ovviamente del governo. Quanto conta la politica dei singoli territori, province, regioni, certo. penso anche a quello che sta accadendo in questi giorni in Basilicata, per esempio. Allora, le fonti rinnovabili sono di tanti tipi e alcune possono essere promosse anche a livello locale, nel senso che per esempio il solare termico, ossia i pannelli che sui tetti scaldano l'acqua per il riscaldamento, per gli usi di tutti i giorni, sono una tecnologia che costa poco e che può essere diffusa dappertutto e che deve essere solo promossa dai comuni ed essere conosciuta e affidabile dai cittadini. Diciamo che la Grecia ha 30 volte i pannelli che abbiamo noi e non lo fa da 10 anni, lo fa negli ultimi 3 anni e ha permesso in questo modo di far risparmiare i cittadini in bolletta e di realizzare delle politiche di risparmio energetico, quindi di minori emissioni ai consumi. La Spagna sta andando in questa direzione, che significa che lo Stato sostanzialmente riduce quelle che sono le tasse sui pannelli solari, che quindi permettono di renderli meno costosi, e di renderli obbligatori in tutti i nuovi interventi nelle ristrutturazioni edilizie. Questa è una classica politica che si può fare a livello locale, che possono fare i comuni e che va semplicemente attivata, perché poi la tecnologia è molto semplice. Poi ci sono altre fonti rinnovabili che sono più complesse, sia il solare fotovoltaico, l'eolico, che hanno bisogno di procedure trasparenti e di incentivi. Per questo serve una politica nazionale che renda anche possibile una scelta nei diversi territori, nelle regioni, e che quindi nei prossimi anni possa portare a realizzare, come fa la Germania, il 10% della propria produzione di energia da eolico e fotovoltaico.